qualcuno sul 10? Sei ancora qui? Allora, io voglio dire che la mia raccomandata è stata pilota. Bucca. Ascolta, io ho il problema che ho le cartucce che non sono originali della stampante. Ma come si fa a togliere quell'avviso? Sono codificate quelle natalizie. Sono codificate. Capito? Ci vuole quella macchinetta che scodifica e ricodifichi per quella due tipo di stampante. Ora su internet la vendono, Macchinetta. Adesso non mi ricordo, basta guardare per fare la configurazione. Da togliere la prima. Anche a me è successo, le hanno caricate, solo che non andavano bene perché. Perché erano state toccate, capito? Casino. Se vi macello. E non si può togliere quell'avviso lì. Natale qua, io devo essere ristampato, poco me ne intendo. Se sta là, ok, però per quanto riguarda le cartucce e tutte queste cose no. Antonio, bisogna chiedere a vedere se lo sa lui. Sì, ma lo sa, aspetta Natale, io subito vado a dare una sciacquata, dai, ci sentiamo dopo. Io sono in ascolto, dai, che sto facendo cosa anch'io, ciao. No, non è buono, ma la ola, presto. A ver, R6, ¿qué está golpeando? Atento, atento, R6. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa Ventura, questa è la parte operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Attenzione canale 10, 27.075. No, la nanza che la rosso, ci dà la sintesi, ci dà il errore, ci la usciamo, ci tagliamo. Ma non ci sta parlando.